Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolada al microfono. Oggi parliamo di xenotrapianti con Guido Romeo. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Dopo una lunga, cos'è, una settimana negli Stati Uniti sei stato? Che hai fatto negli Stati Uniti? Ho visto gente, girato, fatto cose, come dicevano. No, abbiamo fatto un coast to coast verde, delle tecnologie verdi, e abbiamo incontrato l'amministrazione Obama, abbiamo alcuni giornalisti europei, l'amministrazione Obama, il portavoce di Obama che negozierà, anzi appunto lo chiamano negoziatore, che negozierà a Copenaghen per il post Kyoto, e poi alcuni angoli molto verdi, anche proprio letteralmente verdi, dell'America, come Boulder in Colorado, che è una comunità molto famosa, e poi San Francisco, che fa delle cose. Beato te. Beato e ne te. Parleremo ancora. Comunque ne parleremo, ma oggi invece parliamo di xenotrapianti. Ovvio, ci siamo domandati in maniera un po' ironica: ci vuole un fisico bestiale? Sì, no, ma soprattutto siamo pronti per trapiantare nell'uomo organi animali? Siamo pronti? Ma direi che siamo pronti, perché in parte lo stiamo già facendo. Di questi giorni la notizia che Nuova Zelanda hanno avviato qualche settimana fa una sperimentazione con cellule di pancreas di maiale, tra l'altro con un sistema molto innovativo, perché chiuso in una specie di rete tecnologica per non far uscire virus o altre particelle, e queste stanno aiutando dei pazienti diabetici, quindi è una cosa. Quindi c'è una novità, insomma, nel campo. Ma noi andiamo a cercare di capire qualche cosa in più delle xenotrapianti, lo dirò malissimo, con Maria Luisa Lavitrano, medico patologo che insegna all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi. Allora, noi sentiamo subito una scheda che ha preparato Guido Romeo, che racconta anche la sua storia, perché lei ha anche una storia personale molto interessante da un punto di vista sicuramente accademico, ma anche di vita. Sentiamo. Molti scienziati sognano di stravolgere i dogmi e segnare una pietra miliare della scienza, ma solo ad alcuni riesce davvero. È il caso di Maria Luisa Lavitrano, in cui la tenacia sembra seconda solo alla passione per scoperte controcorrente. Nella prima scoperta, 20 anni fa, confessa di esserci letteralmente inciampata. Insieme ad alcuni giovani colleghi, Lavitrano mostrò che al momento della fecondazione gli spermatozoi possono introdurre nella cellula uovo materiale che non appartiene al loro patrimonio genetico. Molti dei ricercatori più anziani liquidarono quella che allora sembrava un'eresia come una contaminazione da laboratorio, e colleghi americani hanno letteralmente boicottato per anni la metodologia. Ma questa napoletana dagli occhi verdi ha continuato a puntare e a scommettere sui propri risultati. L'ostinazione ha pagato, e oggi l'equipe di Lavitrano, basandosi su quella scoperta, ha messo a punto un sistema per produrre animali transgenici molto più efficiente di quelli tradizionali. Una tecnica low cost e low tech, che oggi permette di produrre maiali portatori di geni umani, che un giorno potrebbero fornire organi da impiantare in pazienti affetti da malattie gravissime. Quella degli xenotrapianti è una delle frontiere più fantascientifiche della medicina, ma con un grandissimo impatto sociale. Allora, una delle frontiere più fantascientifiche, scrive Guido Romeo, ma è stata anche abbastanza fantascientifica o complicata la sua vicenda all'università. Lei, mi ricordo quando ci siamo sentiti 5-6 mesi fa a Venezia per Venice Session, disse: io sono orgogliosa di essere una professoressa universitaria e, insomma, la cattedra me la sono guadagnata. Bah, sì, mi sono guadagnata il mio posto al sole come ricercatore sicuramente, e vi dirò che per me è molto importante insegnare, perché la ricerca e l'insegnamento insieme fanno del professore universitario una persona completa. Dove però non è stato semplice, raccontava di aver inseguito professori universitari per farsi finanziare il progetto. Ci può raccontare anche? No. Dunque sì, è vero, proprio all'inizio della storia delle mie ricerche, come tutti i giovani, diciamo, il nostro problema principale era un problema di trovare finanziamenti per la ricerca che non sono facili da ottenere, soprattutto se uno è giovane e se ha qualche idea così, non dico strampalata, ma certamente poco usuale, rispetto, diciamo, alle ricerche che erano compiute in quegli anni. Devo dire che io sono stata molto molto fortunata, perché diciamo, nelle mie varie peripezie incontrai il professor Frati, che oggi è rettore alla Sapienza a Roma e allora invece era il direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza, e sapevo per fama, insomma, che lui era una persona che aveva un occhio per i giovani talenti, e quindi quando mi presentai da lui e gli dissi: ma insomma, se lei è un giocatore di poker, provi a puntare su una ricerca innovativa, lui disse va bene, e quindi ci dette chance a un gruppo veramente di giovanissimi di fare una ricerca che, insomma, era su una questione abbastanza azzardata, e però ci dette tutta la libertà. Ecco, e non pretese neanche, pensi, non pretese neanche di essere citato come coautore in questa ricerca. Cosa stranissima, perché di solito abbiamo visto anche negli ultimi fatti di cronaca che impongono le firme dei figli addirittura alcuni baroni, per cui però lei ma no, questo può accadere, può non accadere. Devo dire, nella mia carriera professionale non mi è mai accaduto. Bene, buono. Ecco, ci ha abbastanza incuriosito. Ha parlato di idee strampalate, ha parlato che era un progetto assolutamente di frontiera. Qual è stato questo progetto? Ma vede, con Corrado Spadafora stiamo facendo esperimenti di tutt'altra natura e su tutt'altro argomento. Per caso capitò di vedere che gli spermatozoi, che sono le cellule germinali, che quello che fanno, diciamo, per loro natura è trasportare il loro stesso DNA nell'uovo al momento della fecondazione, erano anche delle cellule che potevano trasportare del DNA esogeno nell'uovo al momento della fecondazione, e questa era una cosa, come dire, che rompeva uno dei dogmi fondamentali dell'evoluzione secondo Darwin, per cui le cellule germinali sono assolutamente impermeabili a qualsiasi macromolecola esogena, e quindi diciamo, era una cosa così un po' difficile da digerire anche per noi, ci sembrava molto strano, però l'avevamo ripetuto tante volte questo esperimento e volemmo assolutamente dimostrare che questo fosse vero, e quindi per dimostrarlo decidemmo di utilizzare questi spermatozoi che portavano del DNA esogeno, quindi un gene che noi gli avevamo dato all'esterno, per produrre degli animali geneticamente modificati. Quindi facemmo delle fecondazioni in vitro insieme a dei colleghi dell'Università di Tor Vergata e producemmo dei topolini transgenici. Da lì? E da lì diciamo, poi guadagnammo le prime pagine di tutti i giornali. Pensi un po', nell'89 finimmo anche sul New York Times, Washington Post, dappertutto. Però è cominciato, io vorrei farle fare un salto in avanti di 20 anni, perché lei ci ha raccontato l'azzardo e dicevamo che l'azzardo ha pagato. Dai topolini siete passati ad animali ben più grandi e anche ben più simili all'uomo, ai maiali. Cosa fate oggi con i maiali? Ma guardi, oggi con i maiali, appunto, siamo impegnati in questo progetto che, ripeto, più che fantascientifico è molto scientifico, tant'è vero che è finanziato dall'Unione Europea, un progetto che si chiama Xenom. Noi cerchiamo di produrre dei modelli animali che possano essere fonti di cellule, tessuti ed organi per il trapianto nell'uomo, quindi che possano essere utilizzati per l'oxenotrapianto. E credetemi, l'oxenotrapianto non è fantascienza, oggi è una realtà scientifica, almeno per quanto riguarda le cellule. Avete sentito in Nuova Zelanda il trapianto di insule pancreatiche? Sì, l'abbiamo detto proprio all'inizio. Esatto, e in questi giorni proprio c'è a Venezia il congresso internazionale sullo xenotrapianto, dove abbiamo sentito tutte le novità nel campo. Ma siete pronti a fare gli organi come, appunto, scrivono gli scrittori di fantascienza, come scrivevano fino a poco tempo fa, o addirittura li state già facendo? Perché io ho visto, appunto, sperimentazioni molto avanzate ancora nell'animale, ma già che guardano a tessuti umani, a sangue umano. Dunque, Dunque, le sperimentazioni sugli animali sono abbastanza avanzate, ma nessuno di noi scienziati si sente ancora così sicuro da poter fare uno xenotrapianto clinico, da poter procedere a uno xenotrapianto clinico. Ci sono ancora moltissime vie molecolari che devono essere studiate, moltissime ancora modificazioni genetiche che devono essere introdotte negli animali. Quale sarebbe lo xenotrapianto d'organo non è vicino. Quale sarebbe il primo organo trapiantabile? Perché una cosa è un gruppetto di cellule, un sacchettino di cellule, una cosa è trapiantare un rene o addirittura un cuore, come si fece in quella bambina, Baby Faye, nel 99, mi sembra, che si piantò un cuore di macaco. Sì, sì, quello fu un esperimento veramente azzardato, soprattutto fatto in quei tempi. Oggi, diciamo, potrebbe andare meglio. Le dico che secondo me il primo organo che potrebbe essere trapiantato è il fegato. Il fegato è un organo complesso, certamente più complesso di un cuore, perché ha delle funzioni estremamente complesse, produce enzimi, però il fegato potrebbe essere il primo organo, perché consentirebbe il trapianto di fegato sia ortotopico, quindi proprio un trapianto in sede, oppure anche, diciamo, il collegamento all'esterno del corpo, di poter dare chance per un periodo di tempo, quindi un bridge al trapianto allo, quindi al trapianto con un organo umano. Attualmente non si può pensare ad uno xenotrapianto come trapianto definitivo d'organo, ma si potrebbe pensare in un tempo non troppo lontano ad un trapianto temporaneo. Allora col fegato effettivamente... Ecco dottoressa, la interrompo semplicemente per dire che all'824 0024, se chiamate, potete intervenire e chiedere cose alla dottoressa. Se volete scriverci un sms, 349 238 6666. Adesso mi perdoni, perché sicuramente la rendo un po' semplice, però insomma l'immagine evocata dallo xenotrapianto è sicuramente quella della fattoria degli animali di Orwell, dove ci sono questi però animali molto umani, no? Cioè che diventano delle fabbriche di organi per noi. Chiaramente è un'immagine assolutamente suggestiva, ma che un po' spaventa. No, poverini, sono degli animali normalissimi, grufolano come tutti gli altri animali, si accoppiano come gli altri animali, hanno figlioletti come gli altri animali. No, no, assolutamente sono, vede, un gene non fa la differenza, e neanche due, neanche dieci, neanche quindici. Un maiale, anche contenesse tanti geni umani, diciamo dieci, che sono quelli che servirebbero per rendere i loro organi molto compatibili, più compatibili con quelli umani, Non assomiglierebbero a noi. Tra l'altro, professoressa, prima Guido diceva con estrema naturalezza, ma io lo scuso, no? Che gli animali più simili agli uomini sono i maiali, il che va benissimo, nel senso, però spieghiamolo un attimo, perché lui lo dice in maniera anche fin troppo naturale. Io sorridevo, perché vengo un po' dalle tecnologie. Beh, non per niente ogni tanto si parla, no, che degli animali, infatti, uomini che sembrano maiali e viceversa. Infatti, no, sapevo di sfondare una porta aperta. Dica. Dal punto di vista anatomico e fisiologico è uno degli animali che assomiglia di più, perché certamente ci somiglia più dal punto di vista anatomico e fisiologico un maiale che non una scimmia. Hanno per esempio un cuore che potrebbe sostenere la circolazione in un individuo adulto, invece per esempio un cuore di babbuino, il babbuino è una scimmia che, per quanto come DNA, come dire, come evoluzione molto più vicina all'uomo, però per esempio ha un cuore molto piccolo, non potrebbe sostenere la circolazione di un individuo che pesa per esempio 70 kg. Ma quindi il maiale è onnivoro, come noi. Insomma, è molto simile anche dal punto di vista genetico, non è tanto dissimile. Ma professoressa, c'è anche una maggiore sicurezza per quello che riguarda appunto i famosi virus che si teme gli organi animali possano portare appunto nell'organismo umano, perché c'è sempre questo spettro che, insomma, Ebola, AIDS sono tutti venuti dagli animali e sono terribili. Assolutamente sì, anche il recente virus influenzale ha fatto un passaggio nel maiale. Vede, più c'è la differenza di specie grande, più i virus è difficile che possano fare il salto di specie, quindi questi virus che possano del maiale che possano infettare l'uomo, insomma, è un pochino più complicato, mentre i virus della scimmia molto più facilmente fanno il salto di specie. Ecco, ricordiamo... Ciononostante, però, una delle preoccupazioni degli scienziati è proprio la presenza dei PERV, che sono i virus porcini, che sono dei virus endogeni che si trovano integrati nel genoma del maiale, ma come gli uomini hanno integrato il retrovirus, le scimmie hanno integrato il retrovirus, i gatti hanno integrato il retrovirus. Spieghiamo bene, dottoressa, cioè, nel senso, gli xenotrapianti chiaramente hanno degli aspetti che vanno ancora ben illuminati, no? Da un certo punto di vista bisogna capire bene quali possono essere i lati deboli. Un lato debole è appunto quello che una possibile trasmissione di virus patogeni dall'animale all'uomo e quindi una possibile incubazione all'interno dell'uomo di questi virus che possono poi trasformarsi in malattie, in qualche cosa di peggiore, no? Assolutamente sì, non si può escludere. Infatti un grosso lavoro stanno facendo dei colleghi scienziati, tra cui c'è un gruppo molto, molto bravo, molto importante in Inghilterra, per cercare di trovare delle linee di maiali che abbiano pochi virus e soprattutto dei virus che non possono fare il salto di specie. Quindi questa è certamente una delle preoccupazioni principali degli scienziati. Ecco, ad oggi però, nonostante ci siano stati, diciamo, per esempio si usano già i cheratinociti di maiale o comunque le valvole di maiale, per esempio nel trapianto nell'uomo, per esempio i cheratinociti, la pelle bioartificiale per i grandi ustionati, ecco, non si è mai ritrovato un virus di maiale che abbia poi infettato individui umani. Ecco, un'altra preoccupazione del mondo animalista chiaramente è anche quello dell'invecchiamento degli organi, cioè chiaramente il cuore di un maiale ha un percorso di vita diverso da quello di un essere umano. Guardi, mica lo sappiamo. Quando io chiedo ai miei colleghi veterinari, ma scusate, quant'è la vita media di un maiale, quanto vive un maiale? E sa che nessuno lo sa, perché poveretti da anni e anni e anni, da decine di migliaia di anni, sono sempre stati allevati per essere uccisi e per essere utilizzati dall'uomo, quindi nessuno sa quanto invecchia un maiale. Mi creda, non sappiamo se vive 10 anni, 20 anni, 30 anni o può anche vivere 50 anni. Basandosi sui telomeri, che sono diventati recentemente famosi, no? Questi pezzettini di DNA che sono al termine dei cromosomi, hanno vinto appena il premio Nobel tre colleghi americani studiando appunto i telomeri e le telomerasi, si potrebbe predire che, insomma, i maiali possono vivere un numero di anni e quindi il cuore, gli organi di questi animali potrebbero sopravvivere un numero di anni che è compatibile con il tempo medio di un trapianto. Ecco, ma una cosa, parlando proprio di trapianti, tempi medi, entrando un po' nella numerologia sanitaria, Luca prima giustamente dice il mondo animalista, insomma questa cosa fa storcere il naso. Non devi dire però il mondo animalista, il mondo animalista. Il mondo animalista che noi rispettiamo moltissimo. Perché ce n'è davanti uno, andiamo avanti. Ecco, il mondo animalista che rispettiamo tantissimo dice ma ce n'è proprio bisogno. Il mondo animalista di nuovo prima mi diceva ma non possiamo prenderli semplicemente dagli uomini come giusto che sia. E in effetti sarebbe più giusto che ci fossero più donazioni d'organo, però io ho delle cifre, mi dica se sbaglio, che parlano di 45.000 persone in lista d'attesa in Europa per trapianti, 18 minuti, ogni 18 minuti una persona muore in Europa per mancanza di organi da trapiantare. Sì, siamo di fronte a questa emergenza? Siamo di fronte a questa emergenza, questa è un'emergenza ormai che dura da tantissimi anni, e pensi che si è fatto un conto che anche se tutti quelli che potessero donare donassero gli organi veramente, comunque non sarebbero sufficienti per, diciamo, coprire l'esigenza del trapianto. Sa, la vita media si allunga e quelli che noi chiamiamo gli end stage organ failure, quindi le malattie terminali d'organo, sono sempre di più, le liste d'attesa si allungano. Poi al giorno d'oggi, sa, con l'avanzare della chirurgia sostitutiva e soprattutto con le nuove possibilità di terapie immunosoppressive, si riescono a trapiantare anche dei malati che hanno passati 60 anni, cioè ormai si trapiantano anche gli ottantenni. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada, Guido Romeo. Un brevissimo riassunto: abbiamo capito che esistono gli xenotrapianti. Se ne faranno ancora di più grandi, non solo di cellule piccoline, però. Sono una speranza. Ci sono degli aspetti ancora da capire: i virus, l'invecchiamento, il rigetto, tutto ciò chiaramente dobbiamo rispettare la sensibilità degli animalisti, tra cui il sottoscritto. La sensibilità etica, anche religiosa. Perché insomma ci sono tante etnie per cui tante regioni per cui i maiali magari non si vogliono vedere trapiantati. Esatto, abbiamo in collegamento Maria Luisa da Vitrano e anche in collegamento Andrea dalla provincia di Brescia che ci ha chiamato. Buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è un medico veterinario. Sì, esatto. Mi dica. Allora, volevo sapere se si sapeva di simili ricerche, esperimenti sui bovini. La seconda mia domanda era questa. Si è parlato di pancreas, visto che tra i peggiori cancri che abbiamo, cioè malattie tumorali, sono quelle del pancreas che non lasciano prospettive di vita molto lunghe, se si sta studiando solo su alcune linee di cellule del pancreas oppure sul pancreas in toto. Poi se posso suggerire, visto che si è parlato di animali, di suini resistenti più di altri ai virus, credo che noi possiamo in Italia ben rappresentare con le razze autoctone come la cinta senese o il nero dei Nebrodi, okay, dei suini estremamente resistenti ai virus e di questo ne sono direttamente a conoscenza. La ringrazio. Allora, professoressa Lavitrano, lei è medico patologo. Proviamo a ricapitolare le domande. Ci sono esperimenti anche sui bovini in corso? Che lei sappia? Bovini transgenici? Sì. Sì, devo dire, ricordiamo il collega Cesare Galli di Cremona che ha prodotto dei bovini clonati, però non vengono utilizzati come modello per lo xenotrapianto. Ah, ok. E per quanto riguarda il pancreas? Per quanto riguarda il pancreas, quelle che vengono utilizzate sono le insule pancreatiche, non l'organo in toto. Okay. Perfetto. Abbiamo anche in collegamento, diccilo Romeo, Maria Chiara Tallachini, è giurista. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo visto che ci sono degli aspetti anche etici. Stavo prima domandandoci durante la borsa in diretta, io e Guido, sì, però sicuramente un musulmano avrebbe dei problemi a farsi impiantare delle cellule di maiale. No, ma al di là che etici, anche di, insomma, viene da chiedersi, e questa è la domanda che giro a Tallachini subito, ma chi le regola, insomma, qual è il quadro normativo? Perché la Vitrano ci ha spiegato che queste cose si fanno, si potranno fare ancora di più, ma chi è che regola, com'è la legge su questi temi che sono decisamente all'avanguardia? Sono consentiti, insomma. Guardate, lasciatemi fare un commento iniziale, sì. Cioè che capisco che le vicende sperimentali etico-giuridiche sono meno affascinanti di quelle scientifiche, ma nel caso degli xenotrapianti davvero l'intero quadro normativo è alle frontiere dell'etica del diritto ed è interessantissimo da questo punto di vista. In modo sorprendente, per quanto riguarda la domanda sull'etica, c'è una grande tolleranza dal punto di vista delle confessioni religiose. Gli ebrei si sono schierati a favore dello xenotrapianto, i musulmani non a favore dell'uso dei maiali, però guardate, ci sono delle applicazioni, peraltro qui un po' discutibili invece dal punto di vista della sicurezza, con l'uso di altre cellule. Mi è capitato l'anno scorso in Cina, un incontro organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di incontrare il rappresentante della Malesia che diceva no, noi non possiamo nemmeno toccare la carne di maiale, però e dunque non facciamo xenotrapianto, noi usiamo cellule di coniglio e di ratto. Ecco, attenzione perché è poi il tipo di patologia, ecco, quindi non c'è una preclusione nei confronti di altre specie, ci può essere una preclusione specifica, ma questo naturalmente esige un certo tipo di collaborazione internazionale, che è l'aspetto affascinante degli xenotrapianti. Ecco, c'è quindi questa collaborazione internazionale, cioè in questo momento si sta lavorando per cercare di promuovere, di spingere questa sperimentazione, di addivenire a una qualche forma di offerta? Guardi, lo xenotrapianto è stato iperregolato fino dalla metà degli anni 90, e cioè ci sono state delle linee guida, prima delle bozze negli Stati Uniti e poi in Europa, con un grande dibattito, un grande impatto. Per la prima volta, è una cosa che normalmente non si dice, non si sa, il principio di precauzione, cioè quell'idea per cui un rischio non sufficientemente noto deve essere considerato come un rischio più grave, perché non sappiamo davanti a quale situazione ci troviamo, è stato evocato nel 1996 dal National Council for Bioethics, un organo etico inglese, proprio allo xenotrapianto, perché l'idea di rilasciare degli animali modificati geneticamente nell'ambiente e di compiere delle attività che possono comportare un passaggio di batteri o virus e quindi produrre epidemie, è il modo in cui si passa dal principio di precauzione applicato all'ambiente a quello più esteso della salute, insomma, come poi ha fatto l'Unione Europea. Da allora sono cambiate molte cose. L'Europa si è interrogata su una possibilità di moratoria, ma le ricerche che sono andate avanti sono andate poi in direzione di cercare delle strategie complesse per ridurre i rischi. Per esempio, il fatto di passare dagli organi alle cellule è un modo anche per ridurre il rischio. Il trovare queste forme di incapsulamento è un'ulteriore modalità, è anche un modo per sperimentare socialmente in modi accettabili da tutti delle terapie, insomma, ma di non vedere le nuove tecnologie come un tutto o niente, no? Lei mi sta dicendo, cioè, che è più che una questione, cioè non c'è una questione, nessuno pone una questione etica forte su questi temi, cioè c'è solo una questione di scientifica, per cui meglio le cellule, meglio direttamente gli organi. Attenzione, c'è una questione etica che è senz'altro quella degli animali, nel senso che per quanto riguarda i primati non umani, in Europa ci sono delle restrizioni su richiesta proprio dei cittadini europei di limitare al massimo la sperimentazione sui primati non umani. Sui maiali la questione è dubbia, nel senso che accettiamo in generale, insomma, i non vegetariani non sono problematici sull'uso alimentare dei maiali, quindi sarebbe un po' strano che lo fossero poi sulle questioni di utilizzo. Cioè, i maiali non li difende, no? Nessuno, cioè preferiamo difendere i primati. Certo. Mamma mia. L'altra questione è che comunque in Europa e negli Stati Uniti ci sono standard molto elevati per il benessere degli animali, quindi l'idea è che se anche l'animale viene utilizzato e viene alla fine sacrificato, questo non significa che la sua vita non debba essere oggetto, certo, di attenzione. Ecco, quindi Tallachini, ma volevo che invece intervenire mentre Luca è partito a salvare il maiale dal culatello, volevo chiedere se bisogna anche salvare gli uomini da uno scenario giuridico globale che è molto eterogeneo, cioè l'Australia per esempio ha una moratoria sui xenotrapianti, l'Europa, come ci ha appena detto, è molto più attenta in evoluzione, ma sono paesi molto permissivi. Rischiamo di vedere una situazione come, che ne so, quella delle cellule staminali, dove ci sono questi viaggi della speranza nel sud-est asiatico, in Oriente, con effetti addirittura magari controproducenti? Certo, questo è l'aspetto, se vuole, etico-giuridico più delicato, cioè quello che oggi viene chiamato lo xenoturismo, che riguarda sia i pazienti potenzialmente attratti da proprio la Malesia, è stata fino a poco tempo fa la sede di una azienda biotech che poi è stata chiusa, che vendeva su internet queste terapie cellulari di a base di cellule di ratto e coniglio, ecco. Ma al tempo stesso ci sono aziende che cercano gli stati sottoregolamentati, insomma, sperimentazioni in Cina, in Russia, qualche anno fa in Messico su bambini tra i 6 e i 13 anni diabetici di tipo 1. Allora ci sono delle situazioni dove l'assenza di regolamentazione crea problemi etici e problemi sanitari, problemi di sicurezza, tra l'altro proprio in Messico, da dove poi è partito il, ecco. Ci sono oggi comunque in questo settore, ci sono state delle forme di sperimentazione anche di che cosa significa oggi l'idea di avere dei diritti di cittadinanza scientifica. Il Canada e l'Australia, sì, hanno proprio organizzato all'inizio del 2000, e l'Australia ha concluso poi nel 2004 quando ha deciso per la moratoria, il Canada no, consultato su larga scala i cittadini, creando addirittura questa figura del cittadino scienziato o del lay expert, si ecco, dice. Tra l'altro, l'esperto laico. La devo interrompere perché su questo tema faremo addirittura una trasmissione venerdì prossimo, se non sbaglio, vero Guido? Speriamo di sì. Venerdì questo. Speriamo di sì. Io ringrazio la dottoressa Lavitrano, ringrazio Tadacchini. Nova Lab 24. Nova Lab 24. L'amministratore delegato di Oracle, Larry Ellison, è ottimista per le prospettive della sua azienda dopo il previsto acquisto di Sun Microsystems. Obiettivo dell'operazione? Produrre un software su misura per l'hardware di Sun, per realizzare computer specializzati nello stoccaggio dati. Ellison punta ad aumentare di più del doppio i ricavi entro i prossimi 5 anni. L'Uruguay è il primo paese al mondo a fornire un computer portatile a ogni alunno delle sue scuole primarie. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito del progetto One Laptop per Child, che mira a produrre portatili da $100 per tutti i bambini del mondo. I computer, il cui costo per il governo è di $260, hanno permesso a molte famiglie di accedere a internet per la prima volta. Huffington Post sorpassa Washington Post. Il blog di news più popolare degli Stati Uniti ha registrato 9,4 milioni di accessi unici al giorno contro i 9,2 del quotidiano. La classifica dei portali di notizie vede al primo posto Yahoo News, con 42,65 milioni di visite, seguito da CNN, MSNBC e AOL. Quinta posizione per il New York Times, con 21,5 milioni di utenti. Arriva Brutal Legend, videogame action adventure per veri rockers. Toccherà a Jack Black e ai mostri sacri del metal salvare la musica. L'eclettico attore e musicista di School of Rock e Tenacious D presta le sue sembianze a Eddie Riggs, scalcinato roadie, protagonista di un'avventura metallara all'insegna di band come AC/DC, Motorhead, Black Sabbath e tante altre. Il gioco è disponibile per PlayStation 3 e Xbox 360. Luca Tremolada, siamo qui con Enrico Pagliarini, finalmente una voce come si deve, che ci preannuncia quello che succederà domani a 2024. Buongiorno, ciao. Anche se da un po' di tempo, da una settimana che ho dei problemi alla voce, perché ho fatto un weekend al freddo e ho avuto dei problemi. È che vieni qua in trasmissione per quello. Non interrompere Pagliarini. A te piace Brutal Legend? Mamma mia, se piace. Non vedo l'ora. Io non ho idea di che cosa sia, però il nome mi ispira. È praticamente il mondo del metal. Ecco, sì, poi immaginati un gioco AC/DC. Tutto, esatto, tutto Megadeth. Così. Megadeth. Mamma mia, tutto il mondo. Mentre tu ci racconterai domani. Domani alle 15:30 2024 cerchiamo di mettere insieme un po' di cose. Allora, partiamo raccontando qualche cosa sulla Finlandia, che questa settimana ha deciso di mettere a disposizione. Notizione, di tutti. Quella, ecco, però ho fatto un po' di ricerche. Questa notte sono rimasto sveglio, fare un po' di ricerche. Allora, la prima in realtà è stata la Svizzera. Nel 2006 hanno esteso in Svizzera internet al servizio universale. Dallo scorso anno tu puoi chiedere internet anche se sei su una montagna. Magari 24 si sente in Svizzera? Può darsi che in qualche buco ci si infili. No, perché però vuoi mettere la Finlandia con la Svizzera? Cioè, dal punto di vista di notiziabilità. Io già mi immagino. Però questa la dice lunga. Cioè, gli svizzeri hanno questo low profile, per cui fanno le cose, sono molto avanti, però non lo sa nessuno, lo sanno solo loro. Stamattina ho fatto 4 telefonate in Svizzera e ho un po' capito. Comunque, parleremo di questo. Poi cercheremo di mettere insieme alcuni elementi. Mercato dei PC. Ci sono dei dati nuovi molto interessanti, poi le interfacce touch, il tutto in attesa dell'arrivo di Windows 7, visto che si parla molto di questo nuovo sistema operativo della che tra Microsoft. Tra l'altro ha degli schermi dedicati al touch Windows esattamente, 7. Esattamente, diciamo che è un sistema operativo che nasce anche con un occhio al touch, oltre che alla connettività. Quindi mettendo insieme questi elementi, secondo me si racconta bene come si sta spostando e muovendo 22 il esce, no? Esattamente, la prossima settimana. Detto questo, questa settimana, e citiamo anche questa notizia, Acer ha presentato un prodotto che uscirà sì con Windows 7, ma anche con un altro sistema operativo che è Android. Un sistema operativo che è nato per gli smartphone, ma che può funzionare anche nei netbook. notizia interessante. Sì, perché ce lo spiegherai a 2024, sì. Però significa che qualcuno si pesteranno un po' i piedi e sì, cominceranno a pestarsi un po' i piedi un po' tanti soggetti. Esatto. Per noi è meglio, per noi certo, consumatori. Noi siamo solo che contenti. Grazie a tutti, noi ci sentiamo lunedì. Un saluto da Guido Romeo. Ciao a tutti, alla settimana prossima.